Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E oggi compare anche Claudia Schiattone, che saluto, oltre il vetro, che ci ha dato una mano nel preparare questo programma, con Gianmarco Veronati in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Molto bene, sei già teso, no? Per la schedina che ti tocca dopo. Sono teso, ma non è che ho studiato, ho visto le partite e ho le idee già chiarissime. Credo che siamo verso l'ennesimo trionfo. Ho solo il solito dubbio sulla Sampdoria, ma quello vabbè. Vabbè, ma quello fa parte delle cose, sempre, no? Lo sbaglio sempre. E quindi tu di il contrario di quello che ti sentiresti. Se ma non così. Sento niente, capito? Il problema è questo. Non mi senti... Mi sento 1x2, quindi vabbè. L'1x2 non te lo do, mio caro, nonostante tutto il bene che ti voglio. A proposito di Sampdoria, leggo che così sui giornali che Cassano, insomma, medita l'addio al calcio. L'addio di fatto già c'è stato, vogliamo, nel senso che comunque quando non giochi, soprattutto dopo un passato glorioso, è chiaro che glorioso, insomma, sicuramente poteva fare di più, però credo che più di 100 gol in Serie A, comunque una carriera di alto profilo, è difficile ripensarci in una dimensione un po' diversa. In realtà non mi risulta, nel senso che penso che lui abbia ancora voglia di giocare, si allena. È chiaro che dopo sei mesi in cui non giochi, se non ci dovessero essere le condizioni per trovare una cosa interessante adesso, insomma, poi stai un anno fermo e non sei più un bambino, a 35 anni sei quasi in una situazione di ritiro, però io credo che lui abbia ancora voglia, quindi spero e penso che troverà qualcosa. Sì, ma dimmi la verità. Gli piace. Sì, ma dimmi la verità, a me puoi dirlo, dai. Ma no, dalla Cina niente? No, dalla Cina credo che le proposte siano arrivate, poi l'avete letto anche sui giornali. Però non stiamo parlando, ecco, proprio di quel discorso lì sulla che facevamo, sui soldi. State parlando di uno che essenzialmente vuole star bene. Forse anche un po' pigro da questo punto di vista, quindi se sta bene, cioè, non state parlando di uno che si mette lì almeno, poi magari fra 6 ore firma, ma non è esattamente il tipo di profilo di uno che va in Cina, sì, a raccattare grano, a mietere il grano, dici. No, nel senso, capito, quindi questo tipo di aspetto economico, diciamo, gli interessa relativamente. Intanto si è chiusa la vicenda Kalinic. Kalinic ha rifiutato, si è chiusa la telenovela Cino-Fiorentina e Kalinic ha detto di no ad una montagna di soldi, resto a Firenze, così ha deciso l'attaccante Gigliato, anni 29 e 48 milioni di ingaggio per un quadriennale lasciati lì sul piatto, rimandati da un'altra parte. È una bella storia questa, perché sì. Premesso che l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, non ci permettiamo di giudicare nessuno e di fare i conti in tasca a nessuno, però insomma è bello che sia finita così, è romantico che sia finito così, insomma, se realmente è stata fatta questa scelta, immagino di sì, proprio perché ci si vuole continuare un giocatore di questa parte di mondo sicuramente più interessante dal punto di vista tecnico e agonistico, insomma, onore a Cali. Poi no, non sarebbe stata una vergogna, non c'era niente di vergognoso nell'accettare quei soldi, però non averli accettati in nome di qualcos'altro mi sembra che vada sottolineato. Sì, mi viene in mente quel vecchio film con Robert Redford e Demi Moore, te lo ricordi anche tu? Beh, comunque, chiaro, quel film chiaro. Lì. Quello con Robert Redford, con Demi Moore, quello non mi viene il titolo, ma dai, quella che ti do un milione, viene a letto con me, il marito e la moglie che ci pensa. Proposte indecente, bravissimo. Quello con Robert Redford, quello con c'era anche Demi Moore, no? Certo, Demi Moore era l'oggetto del contendere, sì. No, viene a letto con me per $1 milione, e lei, il marito che ci pensa. C'era anche senti, adesso guarda, mi sembra di sì, ma tra un po' arriva Sollazzo e lo chiediamo a lui, perché è stata una settimana molto... Il mio amico Bucci Rosso c'era in quel film? No, ma anche qui chiederemo a Sollazzo, perché è stata una settimana molto cinematografica. Credo vi sia piaciuta 800240024, perché tutte le volte, ma mai come questa volta, Maradona arriva in Italia, si accendono i riflettori e allora ci siamo trovati in mezzo a questo set gigantesco, set cinematografico, poi Van Basten nell'intervista di ieri, Gullit che, come abbiamo detto, arriverà qui e anche qui alla radio martedì pomeriggio in carne e ossa, così ci hanno detto, ma intanto oggi abbiamo letto questa intervista di Emanuela Audisio su Repubblica. Insomma, sembra di essere tornati più giovani per noi, che non siamo rincoglioniti ma siamo sulla strada, come si diceva, citazione cinematografica, in Amici miei. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Dallo stadio San Siro, Milan-Napoli. Milan-Napoli. Stretto la mano a Gullit e state scambiate qualche parola. È un grande campione. Che c'hai nel cuore? Una gioia immensa per essere qui in questa finale del mondo, sicuramente. Ho visto che loro facevano un po' di gioco, ho scavalcato Varesi, lo sapevo con quei darle, con il ginocchio, con il piede, le ho l'ultima con la testa, è entrata. Kakà limita l'area di rigore, si gira Kakà, punta Kakà, destro! Tocco verticale, palla per Inzaghi, occasione Inzaghi! 1-0 Milan! 1-0 Milan! Quale palla Datolo? Cicarini sceglie l'altro lato verso Amsic, palla dentro su Maggio, ancora Maggio, la pressione di Ambrosini, occhio dentro, Ucchi a saltare, Davis! 2-2! Lo scatto di Lavezzi, in ritardo Papastatopoulos, che poi è un grandissimo recupero, la palla resta lì, Lavezzi, poi Cavani, Lavezzi, magia, rete, Lavezzi ha fatto un gol incredibile, incredibile. Bonaventura controlla al limite, ancora col destro, lo murano in due, tra cui ancora Koulibaly, sempre Milan, con Suso, che si inventa il gol del 2-2. Solo davanti a Donnarumma per chiudere, la mette in mezzo, quasi autogol, e poi mano con l'arbitro che lascia giocare, Callejon segna il gol del 4-2. Se tutta la partita è così, pago anch'io il biglietto. Io avrei fatto pagare il biglietto per entrare questa settimana in Italia, che, come dicevo prima a Pierluigi Pardo, è diventata, complice l'arrivo di Maradona, la sua esibizione a San Carlo, l'abbraccio a Sarri e poi le parole di ieri di Van Basten, l'arrivo di Gullit, è diventato un gigantesco set cinematografico in cui incastoneremo questo Milan-Napoli. Se ci fosse stato uno sceneggiatore di questa settimana, io lo ingaggerei subito. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Purtroppo io sono stato solo spettatore, quindi non vi posso aiutare. Proposta indecente con chi era? Con Robert Redford? Perché qui siamo rimasti a Pardo. Sì, Robert Redford e Demi Moore era, allora. E Woody Harrelson era il cornuto, diciamo. Era Woody Harrelson. Woody Harrelson. Grande Woody Harrelson, l'indimenticato. Chi era Woody Harrelson? Woody Harrelson. Larry Flint. Il Milo Forman è pornografo. Il biondo. No, sì, perché sì, sono vero, i cinesi. Vero. In questo caso non era Robert Redford a fare proposte indecenti a Kalinic, ma erano i cinesi. E non gli hanno nemmeno chiesto prestazioni sessuali, ma prestazioni calcistiche per molto più di $1 milione. Stavamo parlando di questo essenzialmente, Sollazzo, giusto per renderti edotto della questione. Io magari dico ai cinesi: se proprio Paolo Sosa non vuole vendere Kalinic, noi abbiamo comunque un ottimo Gabbiadini che gli diamo anche la metà di quello che vuole della Valle. Ma quindi... povero Gabbiadini. Sì, no, ma io con tanto affetto, però insomma un affetto che si può toccare con mano. Sollazzo, perché vuoi far fare al ragazzo l'esperienza cinese, perché penso, ma che sì, lo voglio anche arricchire, certo, sì, va bene. Gabbiadini in realtà secondo me può trovare spazio, può risorgere abbastanza facilmente, non sarei affatto sorpreso. E quindi da questo punto di vista sicuramente il Napoli fa bene a non darlo a una diretta interessata. Proprio in queste ore si era fatto il nome del Milan. Insomma, il Napoli se lo dà una diretta concorrente, secondo me un piccolo rischio se lo prende. Poi è chiaro che in questo momento la priorità è monetizzare, e quindi sarebbe meglio appunto la Cina piuttosto che la Germania o l'Inghilterra. Che, e c'è qualche differenza tra la prima che hai detto e le altre due? Ma certo. Fatemi parlare con Andrea Vianello, ex direttore del TG3, tifosissimo milanista. Ciao Andrea. Ex direttore di Rai 3, diamo sì, Luca Rai 3, Mazzà, scusami, Rai 3, direttore di Rai 3, direttore di un Rai 3. Direttore, c'è solo un direttore. Direttore, un direttore. Mi fate dire una cosa non retorica, poi parliamo di calcio. Tipo no, dilla anche retorica, perché Gullit e Van Basten. In questo momento è tutto a Rigopiano, perché lì sta avvenendo veramente un miracolo e... Io credo che oggi tutti gli italiani stanno facendo il tifo per quei soccorritori che stanno cercando di salvare quelle persone. È una roba, un'emozione collettiva incredibile. Assolutamente. Incredibile. E se posso aggiungere, poi ognuno, il tempo delle polemiche ovviamente ci sarà, ed è giusto anche che ci sia, perché poi non è che le cose bisogna accettarle passivamente e dire che va sempre tutto bene. Però io personalmente ho trovato abbastanza stonato in queste 24 ore nelle quali ancora si stava scavando con delle difficoltà oggettive. Insomma, la ricerca subito del colpevole, la ricerca subito della polemica, qualche balla pure che abbiamo insomma letto in rete, insomma, poi sarà giusto che paghi chi eventualmente ha sbagliato, perché comunque sì, ma arriva in un secondo momento. Ma adesso cerchiamo i sopravvissuti, ecco, che ne abbiamo già trovati 8. Proviamo a sentirci, anche perché poi quello che è più sorprendente è che dal resto del mondo ci arrivano dei messaggi di solidarietà straordinari. E poi magari noi siamo già qui a fare il dibattito, a fare la polemica, ecco, se ce lo possiamo, non dico risparmiare, ma almeno se lo possiamo rimandare nel tempo sarebbe positivo. Quoto. Sì. Ieri con grande tempismo abbiamo avuto, vi stiamo dando nei giornali radio ampie informazioni, continue informazioni su quanto sta succedendo. Ieri qui con me c'era Laura Bettini che ha fatto un lavoro straordinario proprio nel tenerci il polso della situazione su quanto sta succedendo, e io ringrazio Andrea Vianello per aver ricordato tutto questo. Doveroso. Eccoci. Andrea, invece, su un fronte molto più prosaico e giocoso, noi diciamo dare gabbiatini. No, Sollazzo ti vuole dare gabbiatini. Sollazzo. No, io voglio dare i cinesi, non lo darei mai a Vianello. Con tutto il rispetto per il calciatore, però non credo che sia quello che serve al Milan, no? Noi giochiamo con due ali, lui è una seconda punta che è un ruolo un po' in estinzione. Sì. Un po' in estinzione. No, dicevamo, è stata una settimana strana tra questo bagno di nostalgia, no? Tutte le volte che arriva Maradona e poi sono arrivato Van Basten, ieri di cui abbiamo letto l'intervista, è qui da noi Ruud Gullit. Invece dall'altra parte, cioè dalla tua parte, mercato impatto zero, mi pare, no? Mi sembra che le ultime notizie, anche questo Deulofeu che abbiamo iniziato a pronunciare in tutti i modi possibili, mi sa che a Milanello non si pronuncerà, da quello che capisco. Ho sentito già dire a Montella che il vice Suso è onda, e quindi diciamo che andiamo verso un mercato di ristrettezze anche stavolta. Va bene, però la squadra quest'anno ci sta dando grandi soddisfazioni e emozioni. Era raro. Sì, no, sta facendo un campionato straordinario. Forse addirittura più emozioni che soddisfazioni, nel senso che la soddisfazione, ma intanto c'è una Supercoppa vinta. Beh, la Supercoppa, Era tanto che non vincevamo. No, ma volevo, era in positivo, nel senso, io volevo sottolineare l'effetto sorpresa di questa squadra, la capacità. Milan partiva con non troppi favori, con diciamo l'etichetta dell'underdog, della squadra un po' alternativa, dell'outsider, e sta facendo cose molto belle con una squadra giovane, con tanti italiani giovani, insomma è un sembra veramente una ripartenza. Poi quello che dicevo l'altro giorno io lo confermo, secondo me il Milan, il Napoli, le grandi squadre nel calcio moderno non devono temere molto, perché ci potrà essere sicuramente il proprietario più ricco o meno ricco, però poi alla fine la forza del brand, della storia di una società, è talmente grande che se anche questo progetto che sta arrivando non fosse subito all'altezza, ne arriverebbe un altro più forte. In qualche modo è quello che abbiamo visto anche con l'Inter. Toir di fatto è stato un traghettatore che ha appunto portato l'Inter nel mercato internazionale del pallone, siccome l'Inter ha una storia di un certo tipo, perché tornando al discorso che faceva l'altro giorno un ascoltatore, i cinesi possono spendere tutti i soldi che vogliono, ma il Pechino United, Pechino City non avrà mai, forse fra 100 anni potrà avere lo stesso valore di un Real Madrid, questi, Barcellona o di un Milan. Questi trovano anche il modo di imbottigliare l'aria, Pierluigi. Sono fuori mercato, sono fuori logica. Ma non puoi imbottigliare la tradizione, la storia, perlomeno non subito. Puoi fare e non mi sorprenderei, puoi fare Real Madrid, Barcellona a Pechino. Questo magari ci arriveremo fra due anni, perché magari ti daranno talmente tanti soldi. Abbiamo già fatto un Juve-Milan, non mi pare, tanti anni fa. Sì, assolutamente, le Supercoppe, Juve-Lazio, cioè, voglio dire, possono fare queste robe qui, ma la tradizione te la porti dietro. E allora il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, tutte le grandi d'Italia e d'Europa, secondo me, nel medio periodo devono stare tranquille. Posso dire che la notizia di Kalinic che avete dato prima è indicativa, no? C'è un calciatore ancora nel pieno dell'attività, ancora alle soglie dei 30 anni, però ancora da dare, probabilmente non un crack, no? Però un ottimo centravanti. Infatti siamo alle proposte indecenti, direttore. Ecco, siamo alla proposta indecente. Di continuare a giocare nel calcio che conta, no? Piuttosto che rendere felici le sue prossime quattro generazioni con il denaro che gli davano. E quindi questo significa che ancora il peso del calcio vero conta in alcuni calciatori, questo penso che in alcuni sì, in altri tipo Oscar e Witzel no, loro invece hanno preso il volo e i quadrini sono andati, alcuni a tutti possono resistere tranne che la tentazione, ma non sono Oscar e Witzel, con tutto il rispetto, ma anche se ci dovesse andare Cristiano Ronaldo, sì, lo seguiremmo con interesse, con curiosità, ma prima di costruire la storia, cioè, questo è il vero paradosso del mondo moderno. Allora Pierluigi, è chiaro che Witzel e Oscar li perdiamo di vista, perché il campionato cinese di quello che fanno in Cina non ce ne può fregare di meno, quindi non guarderemo neanche una partita di Oscar e di Witzel, così come difficilmente guarderemo una partita di Cristiano Ronaldo. Se ci va bene, ci vedremo la partita con curiosità, ma non ce ne potrà fregare di meno, andremo comunque a vederci Juve-Lazio, Milan-Napoli, cioè questa è quello che penso io, ed è una dinamica che non vale solo per il calcio, ma vale per mille aspetti della modernità. Noi vediamo le nostre strade di Milano e di Roma invase da turisti che vengono da altre parti del mondo, che vengono a comprarci dei marchi che rappresentano la nostra forza, la nostra bellezza, che rappresentano la qualità del Made in Italy e la bellezza del vivere qui, anche se noi magari in certi momenti vorremmo emigrare. E quindi questa roba qui, se non riusciamo proprio a tenercela, almeno facciamocela pagare tanto, almeno sento un pardo candidato premier. No, ha avanzato la sua candidatura. Guarda, Pardo è già candidato per appunto per la poltronissima di premier, per la conduzione del Festival di Sanremo. E adesso anche per Palazzo Chigi. E anche se erano diffuse indiscrezioni sull'Isola dei Famosi, ma poi sono state prontamente smentite dallo stesso Pardo. Nel caso i voti, sì. Pardo, il voto è segreto, noi giornalisti sai che non lo possiamo dichiarare. Manco Vianello. Poi te lo scrivo su WhatsApp se ho votato o no. Vabbè, ok. Boris Sollazzo invece, la scena di Maradona che arriva all'allenamento del Napoli. Sarri, l'ex nemico, interrompe l'allenamento, dice fermi tutti, è arrivato il nuovo acquisto, e a Diego consegnano la maglia nuova del Napoli, numero 10, Maradona se la stringe al petto e va ad abbracciare Sarri. Che core, Io vi dico solo che ce l'ho come sfondo sul computer, quindi perché insomma, sei un romanticone, esatto, proprio il momento in cui si danno il buffetto reciprocamente. Detto questo, un po' sono preoccupato, perché quando c'era Diego una sola cosa non riuscivamo a fare, che era vincere a Milano. Lo abbiamo fatto l'anno che arrivavamo terzi, ma poi da quando abbiamo iniziato a vincere gli scudetti non ci è mai riuscito. Quindi se devo affidarmi alla cabala, l'arrivo di Maradona proprio in questa settimana mi preoccupa un po'. Poi al di là di questo, io credo che quella visita pastorale, perché parliamoci chiaro, insomma, è una visita pastorale, sia stato un'ottima iniezione in una squadra che rischiava una crisi di fiducia, perché comunque c'è una Roma che non si ferma, comunque nonostante sia una squadra che ha perso meno in campionato è solo persa, e quindi poteva insomma avere un problema di entusiasmo, cioè di non riuscire poi a tenere la... E Maradona sicuramente l'ha portato. Poi sul fatto che voglia fare l'ambasciatore del mondo, che addirittura voglia trovare investitori cinesi, ecco, su quello faccio fatica a immaginare Maradona e De Laurentiis come sarà una coppia. Però perché... ragazzi, senti Diego, Ma allora chiamiamo Shannon Stone per la presentazione, che sarebbe bello, sarebbe divertente. Beh, intanto, ragazzi, prima di salutarvi, è comunque una partita che in un campionato disegnato così com'è disegnato è cruciale, perché sono questi scontri che fanno tutta la differenza del mondo per così com'è disegnato, si è disegnato questo campionato. Andrea, crucialissima, sì, per tutte e due le squadre naturalmente. Io devo dirti, ma non per scaramanzia, non penso che il Milan realmente possa farcela per la Champions, lo sogno, le cose possono sempre accadere, però insomma io credo che la Juve, la Roma, il Napoli e forse anche l'Inter, che sta risalendo, sono formazioni più complete di questo giovane fantastico Milan. Però è una partita importantissima anche per la maturità della squadra. Il Milan a Torino ha recuperato una partita difficilissima l'anno scorso. Ricordare Milan-Napoli è molto doloroso, perché ci fu veramente una sproporzione in campo caratterizzata da 4 gol, quindi diciamo anche simbolicamente per il Milan di Montella è un esame di maturità importante. È vero che ogni domenica diciamo che c'è un esame di maturità, però penso davvero che capire anche la differenza con il Milan dello scorso anno, con una formazione così forte come quella di Sarri, sarà molto importante. Beh, grazie direttore, non dimenticarti l'SMS a Pardo, Boris. Assolutamente no, dico che il Napoli deve per forza passarla questa prova di maturità, nel senso che alla fine, da quando è tornato in Serie A, gli scontri diretti veri, quelli che insomma cambiano soprattutto in trasferta, li ha vinti quasi esclusivamente in Coppa. Una vittoria a Milano, una vittoria a Torino, una vittoria a Roma è quello che ci vuole in questo fine settimana, in questo girone di ritorno, altrimenti il Napoli, insomma, secondo me non solo non ha speranze di salire, ma rischia di scendere. Quindi, ti faccio sentire in anteprima il pronostico di Pardo. Vai. No, non lo faccio quando va via sul Lazio, perché ho una sensazione abbastanza precisa. No, lui è scaramantico, quindi non volendo cambiare il mio pronostico. Va bene, allora lo fai dopo. Spegni la radio, Boris, spegni la radio. Vabbè, no, stai con noi. Sera, ho capito. No, continua ad ascoltarci, dai, aspetta, c'è la borsa. C'è la borsa, continua ad ascoltarci per la scrivania di Pardo. Borsa. Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare 2 foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le 2 foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Vale molto questa partita in termini di risultato. Affrontiamo una squadra fortissima che gioca ad alti livelli da alcuni anni. La squadra è numericamente molto molto forte, perché è stata costruita per giocare alla Champions, quindi con un budget da Champions. Lo dico all'amico e collega Sarri, che tanto ci tiene ai fatturati. Quindi è una squadra che è stata costruita per giocare più competizioni, ma anche numericamente più competizioni. Quindi affrontiamo il loro momento migliore, secondo me. Ma l'emergenza in difesa c'è stata per tutta la settimana. Praticamente la partita è stata preparata con i difensori centrali della primavera. È stata una problematica seria per tutta la settimana, una delle settimane più difficili di questa stagione sicuramente da questo punto di vista. Firmi per il secondo posto? Ma io non firmo niente, né per nessun tipo di posto. Allora, mentre Montella è vagamente ironico nei confronti di Sarri, che non firma niente neanche per il secondo posto, dice emergenza difensiva, però Montella vorrebbe averne di quelle emergenze che Napoli certe volte ama, è estremamente più profondo e anche più qualitativo. mentre c'è Gianluca da Firenze, io vi informo tutti i naviganti e tutti i convocati di una decisione estremamente tempestiva della direzione di Radio 24. Ci fermeremo alle 15, quindi non andremo avanti fino alle 15.30, perché dalle 15 alle 15.30, ripeto, molto opportunamente ci sarà uno speciale sullo stato delle cose nel centro Italia, su quanto sta succedendo nel centro Italia, dove i superstiti sono 6 e si continua a scavare, come giustamente sottolineava prima Andrea Vianello, e questo, ripeto, mi sembra estremamente opportuno, quindi insieme fino al GR e poi via a questo speciale. Gianluca da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Due cose. Allora, la prima è che ora sembra che ci sia tutto questo, questa indignazione nei confronti dei cinesi che spendono e espandono e comprando giocatori, cosa che non ci fu svariati anni fa per le squadre inglesi o per le squadre spagnole, che hanno rovinato in qualche maniera qualsiasi appiglio per le squadre, diciamo, con spesa media, tanto che hanno dovuto inserire il fair play finanziario, che è una cosa, ora i cinesi sembra che abbia stravolto il calcio mondiale con queste offerte, e io ricordo ai tempi delle offerte per Vialli, mi perdoni, però come su questo rimango d'accordo con Pierluigi Pardo sul concetto di base. Allora, posto che Kalinic ha detto di no alla proposta indecente, non in questo caso di Robert Redford ma degli emissari cinesi, un conto è andare a giocare in Inghilterra, tutti dicono anche il Chelsea è stato costruito col denaro, sì, ma si tratta di situazioni diverse. Anche Pogba è andato al Manchester United perché gli hanno più che raddoppiato l'ingaggio, cosa che la Juventus non voleva e non voleva permettersi. Un'altra cosa è andarsi a seppellire calcisticamente dall'altra parte del pianeta, dove scompari totalmente dalla mappa calcistica. No, ma il meccanismo è lo stesso, il principio è lo stesso, quindi ha ragione l'ascoltatore. È chiaro che è vero quello che dici tu, cioè dal punto di vista di chi fa una scelta, poi è ovvio che non c'è partita tra ipotesi come quella inglese, ma comunque è vero, anche loro perché in un certo momento hanno drogato il mercato, ma non è, cioè, il mercato è drogato per definizione. Non voglio fare della filosofia spicciola, è ovvio che già il meccanismo stesso del mercato porta alla possibilità che il mercato venga drogato, perché è un meccanismo nel quale ognuno è libero di offrire quello che vuole, è ovvio che lo puoi drogare, perché se c'è qualcuno che ne ha molti più di te, è ovvio che finisce per drogarlo. Qui si tratta di droga pesante. Poi ci sono dei casi, delle situazioni, dei momenti in cui questa tendenza è molto più forte, molto più clamorosa, e allora appunto parliamo di mercato che viene drogato e non ci piace tanto. Non ci piace tanto perché uno dei meccanismi belli, una delle specificità belle del calcio è l'equilibrio, è il fatto che ci sia una competizione. Esattamente, una competizione anche economica. E qui volevo sentire anche su questo argomento l'opinione, poi ti porto da un'altra parte, di un vecchio amico e una penna d'oro del giornalismo italiano che scrive sui retini grigi i suoi commenti sul Corriere della Sera, Cristiano Gatti. Ciao Cristiano. Ciao, eccoli, ciao a tutti. Ciao. A tutti. Come va? Il gatto e la volpe, Pardo e Gatti. Allora, il gatto e il pardo all'inizio. Gatti e il pardo. No, senti, cosa ne pensi di questa droga cinese sui mercati? Ne stavamo discutendo, siamo passati attraverso anche paralleli cinematografici e ci ha aiutato Sollazzo con proposte indecente. Ma tanto per cominciare, secondo me è a scadenza, perché abbiamo letto, sentito che dall'alto in Cina sono partiti degli altolà piuttosto fermi, e per cui non credo che la ricreazione durerà ancora a lungo. I cinesi sono lenti nelle loro decisioni, nelle loro riflessioni, ma sono anche molto fermi. Sono arrivati alla conclusione che non è più il caso di essere il bancomat del calcio mondiale, di sicuro quanto prima cominceranno a fermare questo Luna Park. Questo non vuol dire che non si faranno più affari con i cinesi. No, il calcio cinese ha ha in mente di organizzare dei grandi mondiali nei prossimi anni, vuole arrivarci come piace a loro, perché per loro sono sempre questioni di Stato e sono sempre questioni di immagine per lo Stato, per cui è chiaro che continueranno, però forse, ecco, diciamo che le cifre folli che a noi fanno saltare sulla sedia, benché abbiamo anche una certa dimestichezza, forse stanno per finire. Al di là di quello, io penso soltanto una cosa, che se un calciatore vuole essere considerato ancora tra i viventi non deve andare giocare in Cina, in Arabia, questo certo. Quindi, no, si vanno a seppellire calcisticamente, questo è evidente, ecco, no? E poi ti dico, loro parlano sempre, loro magari i loro procuratori, di scelte di vita, ecco, se c'è una scelta di vita che è una scelta di tumulazione è proprio quella di andare a giocare in questi campionati. Cristiano, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, torniamo subito e facciamo questi altri discorsi. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono Pierluigi Pardo e Cristiano Gatti. Cristiano, così in passanti volevo chiedere se è d'accordo con Pardo quando fa una crociata a favore dello spettacolo di Maradona, dell'apertura delle sacre porte dei teatri anche a quelli che sono stati idoli calcistici, idoli pop della nostra cultura. È successo con Maradona, ma abbiamo sentito ieri parlare Van Basten, sta arrivando Gullit in Italia, in tutto questo strano miscuglio che ha come cornice un reale Milan-Napoli. Sono d'accordissimo, nel senso che per certi aspetti, in certe epoche, con certi personaggi, il calcio non è più solo calcio, diventa veramente cultura. Posso usare impunemente questo termine, spero, e diventa cultura. Maradona, chiunque vada a Napoli ancora adesso, respira il maradonismo, vissuto come mito, come rimpianto, come malinconia, come poesia, ma Maradona sovrasta i cieli di Napoli e mi sembra molto normale che poi arrivi anche a teatro, che è poi l'espressione della vita comune, no? Il teatro ha sempre queste radici popolari, da sempre, da quando è nato. E allora ci sta benissimo. Io l'unica eccezione che ho, ma non riguarda per niente né il teatro né la cultura né Napoli, è che Maradona è pur sempre un evasore fiscale e ci deve dei soldi, dico ci nel senso che li deve al fisco, li deve a tutti noi, per cui questo andrebbe in qualche modo sanato, perché se tu, Carlo, avessi una pendenza con l'Agenzia delle Entrate non saresti così libero di andare a fare teatro. Questa è una questione che va risolta anche quando si comincia a parlare di un rientro di Maradona nell'organigramma del Napoli. Per il resto io credo che a Pardo siano piaciute molto le parole di Cristiano Gatti, no? Ma assolutamente, guarda, noi a Tiki-Taka e a tutti i convocati abbiamo continuamente punto di vista di persone, da Cristiano e poi, che si occupano anche di altro. Cioè, quello che da metà degli anni 90 in Inghilterra con Febbre 90, che fu il primo libro veramente dirompente, di grande successo di pubblico, che ha portato il calcio a testa alta nel mondo della cultura, ovviamente di una cultura pop, ma insomma che ha detto: cari intellettuali, scendete dal piedistallo, nel senso che il calcio piace pure a voi e se ne può parlare in una maniera importante. Questa è l'idea è chiaramente ormai la vediamo ovunque, no? La vediamo non soltanto nelle nostre trasmissioni, poi a volte ci riusciamo, a volte meno, ma ormai è una tendenza assoluta, è giusto che sia. Insomma, Giorgio Borrà 15 anni fa faceva lo sciagura d'egidio, c'è Buffa, di che stiamo parlando? È questa roba qui, quindi Maradona deve andare in teatro, assolutamente sì, secondo me, perché Maradona è stato uno dei personaggi più importanti della storia di Napoli degli ultimi 30 anni, senza alcuna discussione, anche controverso sicuramente, anche divisivo. No, ma come dice Cristiano, è una sorta di religione pagana, no? C'è il maradonesimo a Napoli ed è giusto che sia così, io su questo sono perfettamente d'accordo. Stiamo rivedendo, tra l'altro, Cristiano, anche e vedremo martedì. È una promessa che ci hanno fatto, Ruud Gullit verrà in questi studi alle 15 e racconterà il suo nuovo libro. Allora, te lo porto io, tranquillo. Me lo porti tu? Te lo porto io, sì. In macchina? Non fare tardi. Non lo so. Molto. Viene anche a Tiki-Taka? Beh, vediamo, insomma, te lo porto, tranquillo. Va bene, arrivi con Ruud Gullit, va bene, io ti aspetto. Gullit, esatto. Fu simbolo cristiano, se lo ricordiamo bene, no? Direi che può fare veramente a livello così di costume, di filosofia, fare veramente da contraltare a Maradona, perché nella stessa epoca noi eravamo magari cronistelli un po' più giovani, ma Maradona aveva... Napoli aveva Maradona e Milano magari non aveva personalizzato, perché Milano ha una mentalità diversa, però Milano aveva la sua, come hai detto benissimo tu, la sua religione pagana, era il Milan di Sacchi, Sacchismo e Gullit la interpretava. Fu anche simbolo di ribellione, no? con i capelli lunghi fino alle spalle, rasta, con la chitarra in mano, fu una delle prime stramberie dei calciatori, Cristiano. Adesso, ecco, curiosamente, dimmi. Dicevo che Maradona di suo ci aggiunge, prima di tutto il contesto, come si dice, che è quello di Napoli, che ha queste sue grandi passioni, questi suoi grandi sentimenti, però anche un po' la storia del maledetto che Gullit non ha, siccome nelle storie di sport e di teatro, perché secondo me si possono assimilare, il gusto del maledetto va molto, piace molto, attira molto, grande dramma dell'umanità, no? Ecco, Gullit invece ha un po' meno di questo, ma anche se ha tutta un'altra dimensione, tutta un'altra, altri aspetti che comunque sicuramente stanno bene, fare veramente anche da contrastare, perché in quell'epoca, fine anni 80, la nostra vita, giustamente Paolo parlava di cultura pop, la cultura pop è questa, è quella che entra nelle case, di cui parlano le famiglie, di cui si legge sui giornali, tutto quanto, quello era, si parlava di questo. Grazie Cristiano, è sempre un piacere, ogni volta sentire Cristiano Gatti, farlo assolutamente con lui. Non voglio ritardare la schedina, ma la anche perché ci siamo, ci siamo. La grandezza di Maradona e la diversità di Maradona è che Maradona ha avuto anche il merito di dare a Napoli, soprattutto grande città italiana con una sola squadra, l'unica grande città che ha una sola squadra, quindi che è città squadra, l'ambizione e la possibilità di poter vincere e poi farlo veramente, che non come sottolinea Gullit da solo, come sottolinea Gullit nell'intervista di oggi, sì, anche di Emanuele Audisio, poi ci furono altri campioni, ma all'inizio da solo, cioè sì, all'inizio da solo, noi eravamo fortissimi, ma lui era da solo. Ascolta, completamente la percezione. Schedina time, è il momento che tutto il mondo aspetta per ogni settimana. Sì. Chievo Fiorentina. Vediamola ai cinesi, sta roba. Dai, vediamo ai cinesi. Dai, bella idea. Adesso... Chievo Fiorentina X. Domani 20:45 per l'appunto. Milan Napoli 2. Bologna Torino X. Empoli Udinese 2. Genoa Crotone 1. Palermo Inter 2. Pescara Sassuolo domenica 15. 2. Atalanta Sampdoria 1, ma tanto sai che sbaglio sempre, vado per la percentuale. Domenica 20:45 Roma Cagliari 1. E infine Juventus Lazio domenica 12:30 1. Ecco la schedina di Pierluigi Pardo, ovviamente domenica. Viaggiamo fra il 7 e il 9. Non fare sborone. Senti, tanto ti saluto, ci sentiamo domenica e diamo una prima controllatina alla schedina. Domenica con tutti i convocati weekend ovviamente ci sarà Giovanni Capuano. Noi chiudiamo qui la settimana, perché la prossima mezz'ora sarà dedicata molto opportunamente, come ripeto, agli aggiornamenti, a tutto quanto, tutte le notizie che arrivano dal centro Italia e dai problemi che tutti conoscete. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia e anche a Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo.